Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Le 8, 18 minuti e 40 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci di nuovo buongiorno da Simone Spezia, la terza parte di 24 Mattino, è martedì 22 settembre ed è la parte che, nella quale accogliamo il commento tutti i giorni del nostro Paolo Mieli, col quale buongiorno. Oggi, caro Paolo, buongiorno, eccoci qua, Oggi è giornata dedicata ovviamente alle regionali, al referendum, poi dopo più avanti alle 8.35 torneremo a parlarne, lo faremo con Alessandra Ghisleri, poi avremo un esponente della Lega e uno di Italia Viva. Paolo, un primo commento. Beh, il primo commento non può che essere ovvio, il governo ne esce con le ossa ben salde, Zingaretti, il segretario del PD, rinfrancato ieri sera, era tutto allegro, non si parlerà per lungo tempo di sua rimozione, di sue dimissioni. Salvini ne esce ammaccato e ne esce ammaccata anche la Meloni, tutte e due hanno perso una partita importante, uno in Toscana e lei in Puglia con il candidato Fitto, Salvini in Toscana con la Ceccardi. Il Movimento 5 Stelle è non pervenuto come dati elettorali, però riporta a casa la più grande vittoria della sua storia, il taglio dei parlamentari in quelle proporzioni, 70%, insomma non è cosa da poco, nel senso che vuol dire che comunica con le viscere più profonde del paese, quindi è ammaccato. Tra l'altro oggi c'è la notizia della condanna dell'Appendino, che era una candidata umbra, poi umbra fino a un certo punto, umbra per la guida dei 5 Stelle, Di Maio era d'accordo, e una condanna la mette fuori gioco ed è un ennesimo elemento per cui si può dire che dentro quel partito ci sarà disordine. Però sai qual è la notizia che mi ha colpito più di tutte? Vai, dimmi. Una notizia che ho trovato nascosta in un giornale sul Libero, che i sondaggi per Bolsonaro in Brasile lo stanno mandando alle stelle. Ora io ho fatto un salto sulla sedia. Bolsonaro guida il paese che è secondo per vittime al mondo, terzo per contagi, lui era negazionista, ha fatto delle figure di palta per tutto il tempo perché si è beccato anche il virus, insomma mi sembrava un caso disperato, e invece vuole i sondaggi. Perché vuole i sondaggi? C'è un'acuta analisi di Maurizio Stefanini che dice che ha cominciato una politica di regalie che da far impallidire quella nostra, quella di Conte, cioè ha cominciato a dare redditi di cittadinanza a tutta Callara, e questa cosa lo ha portato, lo sta portando, io poi ai sondaggi credo relativamente, ma cosa mi ispira questo? Mi ispira l'idea che come gli uomini affrontano il Covid, come sanno approfittare di questa crisi, sia quelli che lo affrontano bene, sia anche quelli che lo affrontano in maniera più demagogica, può cambiare la storia politica di tutto il mondo. E più in piccolo immagino che ti richiami non a caso ai governatori uscenti, ai presidenti di regione uscenti che hanno conseguito delle vittorie. Più che a Zaia, che forse avrebbe vinto lo stesso, De Luca no, perché De Luca i sondaggi lo davano perdente o comunque in grave difficoltà prima della crisi del virus, ed è uscito con un trionfo veramente che sarà studiato nei manuali. Guarda, questa vittoria di De Luca, per i suoi toni, perché De Luca è molto diverso. A proposito di toni, aspetta, ce l'abbiamo la voce di Vincenzo De Luca ieri, così lo sentiamo. Poi abbiamo visto ritornare a galla e prevalere elementi di rissosità, di aggressività, di politica politicante, che sono l'unica cosa di cui l'Italia non ha bisogno. Ed eccolo qua, proprio lui, che si lamenta dei toni e un po' li ha alzati qualche volta, Paolo. Però funziona, eh? Questa voce funziona, questa è una voce ed è un volto a cui gli italiani si sono evidentemente abituati, soprattutto i campani. E per Fitto è stata un'altra grande la sconfitta di Fitto, sì. e la vittoria, stavi dicendo? No, di Michele Emiliano, sì, dicevo la vittoria. Ah, sì, la vittoria di Michele Emiliano, scusami, e quella è stata ancora più sorprendente, perché Emiliano veniva dato nei sondaggi per anche lui testa a testa, ma perdente, sì. Si discuteva già. E invece questa loro capacità di uscire dai binari del partito, non sono uomini di partito, sì. Sono uomini a sé, il partito nelle loro regioni sono loro, vedi, una volta erano i sindaci, adesso sono questi governatori regionali, avremmo dovuto capirli tutti già con Bonaccini, che fu il primo. Che è un po', Paolo, se mi permetti, è lo stesso problema che ha Salvini con Zaia, cioè, il Veneto non è della Lega, è di Luca Zaia in questo momento. Quindi... Beh, sì, il successo della sua lista personale ha lasciato tramortiti anche osservatori disincantati come me. Chi se l'aspettava? Una cosa del 45% e la Lega mi sembra che stia al 15%. Sì. Nota bene, io non credo che Zaia voglia prendere il posto di Salvini, questi sono compitini che lascio ad altri. Lì si creano delle situazioni come in Germania con la Democrazia Cristiana Bavarese, che fanno delle repubbliche a sé. Qua noi stiamo vedendo che il Lombardo-Veneto, quello che fu il Lombardo-Veneto austriaco, ha una logica a sé, solo che ad essere trainante in questo momento non è la Lombardia come fu anticamente, ma il Veneto. Una cosa curiosa anche quella, da esaminare anche sotto il profilo sociale ed economico. E Zai è l'uomo, è lo Strauss, così si chiamava allora il leader bavarese, è lo Strauss, sì, di questa situazione. Dopodiché, sì, come Strauss non attentò mai, non cercò mai di diventare il capo del Partito Democristiano Tedesco, così è altrettanto improbabile. Però non mi lancio in paragoni spericolati, perché se no poi litighiamo e andiamo a fare botte fino a... E poi se veramente diventa leader del partito, poi io ripesco quest'audio, ce lo segniamo, martedì 22 settembre lo ritiro fuori, quindi buoni, più cauti. Salvini tra l'altro dice che non teme la competizione interna, no? Sentiamolo, va. I cittadini dicono che la Lega da nord a sud è il primo partito di questo paese. Non soffro competizioni interne, nel senso che più cresce la squadra del centrodestra meglio è per tutti, non ho nemici nella vita. Un po' più sulla Meloni questo, però il riferimento potrebbe essere anche a Zaia. Paolo, comunque, molti... quelle frasi, sì, le frasi non soffro competizioni interne vuol dire che soffre un po', sì, un pochino lo soffre alla fine. Non tira fuori. Molti ascoltatori ci dicono, ma come fate con 15 regioni su 20 governate dal centrodestra? Come fate a dire che questo voto rafforza il governo, che questo voto rafforza Zingaretti e il Partito Democratico? Aiuta i nostri ascoltatori a capire. Poi so che a volte le cose della politica sono difficili, no? da cogliere, si basano su equilibri un po' delicati, però dacci una mano, Paolo. Guarda, te lo dico semplicemente, è una parola che sparisce oggi dal nostro vocabolario, che è la parola spallata. Allora, siccome questo governo ha in Parlamento una maggioranza raccolta chissà come, ma ha una maggioranza, l'unico modo per abbatterlo era una spallata, e Salvini intelligentemente ha provato a sottrarre al PD due regioni storiche, l'Emilia e la Toscana. Avendo fallito in entrambe le regioni, anche se la maggioranza degli italiani è ancora di centrodestra, non ci sarà modo che la possano esprimere con delle elezioni questo loro essere di centrodestra, per cui il Parlamento rimarrà quello che è, la spallata sparisce dal vocabolario e quindi il governo è più forte, cioè è come se io andassi per strada a passeggiare e c'è un tizio, un energumeno che mi vuole buttare per terra. a un certo momento fortuitamente qualcuno gli spara o lo leva di mezzo in qualche modo, e io la mia passeggiata la faccio più tranquillo. Dice: ma l'ostilità che esprimeva quell'energumeno è un'ostilità che c'è ancora. D'accordo, ci sarà ancora, ma l'importante è non dargli la possibilità di esprimersi contro di me. Quindi Conte si sta facendo una passeggiata, e più adesso avrà pure da spendere questi 209 miliardi a rate, perché non è che gli arriveranno subito. E quindi è una specie di zio Paperone che tutto contento e tutto felice, tranquillo, passeggia. Ci sono però tante incognite, la seconda ondata, insomma le cose di cui parliamo tutti i giorni e di cui non mette conto parlare stamattina. E vedremo, perché questa partita, la partita anche politica mondiale, la vedremo quando l'epidemia sarà finita, e vedremo cosa lascia sul terreno. Sì. Dopo la prima guerra mondiale ci fu la spagnola passò e lasciò sul terreno il fascismo, il nazismo, il comunismo, capisci? Certo. Cioè, è complicata la storia, tutti pensavano dopo la prima guerra mondiale, beh, si ricomincia più o meno con gli attori che c'erano alla vigilia della prima guerra mondiale. Non fu così, perché l'insieme fra vita in trincea e una epidemia più grande, perché allora c'erano meno mezzi di curarla, di questa cambiano le carte in tavola in maniera imprevedibile. Comunque io do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori adesso all'inizio di novembre, quando ci saranno le elezioni americane, lì avremo un secondo test molto più importante del nostro. Un altro grande punto di svolta. Caro Paolo, ti saluto per oggi, poi tanto di queste vicende torneremo a parlare ovviamente. Ma tu sei un ossesso, vuoi parlare poi succede. Le sardine non ci sono sparite, sono sparite nel nulla, Paolo, sono sparite nel nulla, dovresti fare qualcosa, tu da padre nobile. Guarda, delle sardine, da uomo che muove i fili di Mattia Santori dovresti fare qualcosa. Nego, non muovo i fili di nessuno, però le sardine hanno avuto una sconfitta perché non si sono fatte vive. Sì. La Toscana ha vinto senza le sardine, anzi sai che ti dico, io me lo sono studiato, la Toscana ha vinto con un margine maggiore di quello con cui aveva vinto Bonaccini, cioè senza sardine hanno vinto meglio, in più si sono schierate per il no e quindi sono state sconfitte. Basta, addio sardine, finite le sardine. Grazie Paolo, buona giornata e grazie, ci sentiamo domani mattina. Ciao, grazie Paolo. Ciao. Mieli, una pausa, a tra poco. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, autrice del libro La Repubblica dei Sondaggi, edito da PM. Buongiorno Ghisleri, bentornata ai nostri microfoni. Ha visto, hanno vinto tutti un'altra volta. Ce l'eravamo già detti. Come sono andate le cose secondo lei? Ma sono andate bene, nel senso che comunque c'è stata una vittoria annunciata del sì, cavalcata da Di Maio in una maniera, diciamo, immediata, quasi a voler mettere un argine a quello che sapeva benissimo si sarebbe profilato nel tardo pomeriggio, cioè la grande sconfitta alle regionali. E poi c'è stata una grande battaglia in Puglia, una vittoria di quello, come avete già detto, dei precedenti di regioni uscenti, che possiamo dire sono dei punti di riferimento importanti, e lo hanno rappresentato durante il Covid e subito dopo. C'è stata una scelta errata di determinati candidati per il centrodestra, un po' d'antan e datati se vogliamo in Puglia e in Campania, e forse anche in difficoltà in Toscana. E poi c'è stata una guerra intestina, diciamo, nelle liste del centrodestra, pensiamo alla lista Toti e a Forza Italia, pensiamo a Zaia, come avete già detto, alla sua lista e alla Lega. Pensiamo anche al rapporto tra la lista Fitto e la Meloni e il rapporto con la Lega, che evidentemente non ha assolutamente sfondato al sud, e al momento la sua linea Maginot è ancora al centro-nord Italia. In fondo Ghisleri mi sembra di leggere quello che è un grande tema di capitale politico personale dei presidenti di regione, molto più che dei singoli partiti, anche nei casi di De Luca ed Emiliano, che sono comunque personaggi eccentrici rispetto al Partito Democratico. Sì, guardi, poi per il caso Emiliano l'abbiamo seguito in prima persona, quindi sappiamo benissimo che cosa è accaduto, perché già a giugno la sua personalità era molto più forte delle sue liste. Il costruire una coalizione con tantissime liste associate permetteva di poter dare ampio spazio, ampio collocamento a più personalità. Il centrodestra era molto contratto, molto concentrato intorno ad un unico candidato, già visto, già visitato, con degli scontri già misurati. La nuova campagna elettorale è stata di territorio per tutti. Penso a Toti, penso a Zaia, penso a De Luca e penso a Emiliano. È stata molto sul territorio perché hanno dovuto dimostrare che loro c'erano, hanno fatto sentire e vedere la presenza che era mancata durante il periodo del Covid. Emiliano ha vinto su di sé, sul suo saper lavorare con la gente e soprattutto, come dire, cercando quelle sacche di voto che erano diventate proibite, perché durante questi 5 anni di governo aveva lasciato indietro molti temi come l'agricoltura, determinate tipologie di aziende, e è riuscito durante una campagna elettorale molto complicata e difficile a battersi per poter riunire questi, certo. Sì. Edoardo Rixi, deputato della Lega, nel primo governo Conte è stato viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Rixi, buongiorno, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci siamo. Buona giornata. C'è chi mette in relazione i risultati elettorali con una crisi, un rischio di crisi di leadership di Salvini. Al momento non mi sembra all'orizzonte. Credo che insomma alla fine anche questa campagna elettorale segna un altro più al centrodestra, che è la regione Marche, ma anche dei buoni risultati in varie regioni, e poi oggi ci sarà lo spoglio anche in Val d'Aosta, dove la Lega risulta per la prima volta al primo partito. Quindi credo che da questo punto di vista, non vedo, tutti hanno puntato molto sul Veneto. Devo dire che sommiamo la lista Zaia e la lista Lega, il Veneto c'è praticamente un monocolore leghista al 60%. Sì, sono più voti di Zaia che voti della Lega, quelli, diciamocelo. Sì, però Zaia è della Lega, cioè a differenza, per dire, di Toti o del presidente delle Marche che ha indicato la Meloni, Zaia è strutturalmente della Lega da circa 30 anni e dentro la lista Zaia quasi tutti gli eletti, io credo la totalità degli eletti, sono iscritti alla Lega almeno da 5-6 anni. Quindi quello che è chiaro che si sta cercando di far passare è un dibattito interno, che ovviamente c'è come in tutte le forze politiche, ma che al momento non mette in crisi nessun tipo di leadership, magari un po' di più alcune tattiche che devono essere riviste anche sulle campagne elettorali. Quindi qualcosa da discutere, cioè mantenendo ferma la leadership di Salvini, discutere le sue scelte si può si deve, no? Devo dire che discutere fa sempre bene, poi dovrebbero discutere anche in maggioranza e dovrebbe pensare anche il Presidente della Repubblica se è possibile andare con l'attuale Parlamento al rinnovo della più alta carica dello Stato per 7 anni, quando la situazione è chiara che i cittadini italiani con questo referendum hanno cambiato anche la proporzione tra i membri di Camera e Senato e gli eletti delle regioni proprio nel votare il Presidente della Repubblica. Lei dice Mattarella dovrebbe sciogliere le Camere adesso? Ma devo dire, un problema sulla riforma costituzionale e quello che è il collegio che elegge il Presidente della Repubblica andrebbe posto, perché uno dei motivi per cui ho votato sì è che dava più peso alle regioni rispetto al Parlamento, quindi non si può rimandare di 7 anni l'attuazione della riforma costituzionale che entra in vigore da oggi. È stato un errore la scelta della Ceccardi, Rixi, ci voleva forse qualcuno, una figura, qualcuno scrive, una figura un po' più alla Guazzaloca a Bologna, per dare un'idea, cioè qualcuno che avvicinasse più quel pezzo di elettorato, capisce cosa intendo, no? Ma guardi, io ne posso essere d'accordo su tutto, la cosa che dico è che l'unica che ha avuto il coraggio di candidarsi in Toscana è stata la Susanna Ceccardi. Noi avremmo fatto anche meno del candidato in Toscana, ma non lo voleva nessun altro candidato partito della coalizione. Per quanto riguarda i civici, in Toscana avevamo paura di esporsi, in quanto comunque la Toscana è ancora particolarmente, come posso dire, permeata da una ragnatela di interessi legati al centro-sinistra. L'unica che ha avuto il coraggio di farlo è stata Susanna Ceccardi, quindi secondo me va ringraziata per uno sforzo fatto, tra l'altro pochi mesi dopo essere diventata mamma, e probabilmente avrebbe fatto volentieri a meno. È una che ama la sua terra e quindi l'ha fatto. Io vengo da una terra che una volta era rossa, la Liguria, che oggi non è più rossa perché è la seconda volta di seguito che vince il centrodestra. Però anche qua trovare un civico fino a pochi anni fa per il centrodestra era praticamente impossibile. Poi, dopo aver vinto le regionali, abbiamo trovato Bucci, abbiamo trovato altri candidati sindaci, ma finché non governi la regione difficilmente i civici si espongono, perché tendenzialmente hanno paura poi delle conseguenze nel caso in cui perde. Alessandra Ghisleri, secondo lei un'altra candidatura avrebbe funzionato meglio di quella della Ceccardi in Toscana? Magari il centrodestra avrebbe potuto strappare la Toscana al centrosinistra con un tipo di candidatura, come dicevo, un po' più morbida, un po' più centrista, per così dire? Beh, forse sarebbe stato più semplice, però è difficile dirlo dopo. Ma la cosa più importante, del senno di poi, come diciamo, certo. Per carità, prego. No, ma c'è una cosa che secondo me è stata tralasciata e che io reputo l'errore più grande. Quando Salvini ha dichiarato il 7-0, perché ha alzato le attese, quindi, perché il 3-3 era già una vittoria, sarebbe stata un 4-3, come adesso vedremo con la Valle d'Aosta, sarebbe stata una sorta di vittoria. Una vittoria buona per le Marche, che da 25 anni non sono mai state governate dal centrodestra. Invece lui ha alzato talmente tanto l'attesa, cioè dicendo sarà 7-0, che a quel punto tutta la comunicazione e l'informazione si sono rivolte verso quelle due regioni che rappresentavano lo spartiacque. Certo. E quindi la Puglia a quel punto ha reagito in una maniera interna, e la Toscana aveva un trend molto forte, perché è difficile, come l'Emilia-Romagna, alla fine, guardando l'affluenza, si nota che l'orgoglio toscano della tradizione di appartenere a un valore di sinistra è prevalso. E qua, anche qui, non è, per carità, tutto le vittorie di Zingaretti, sì, tutto quello che volete, ma è veramente la vittoria di quello che è il senso della politica per la gente. E si nota che c'è una divisione importante tra quello che il politico racconta e cerca di capire e quello che invece la gente sente e legge, come legge la politica. Sì. E questo gap sembra ancora più grande dopo queste elezioni. Ultima domanda, Rixi, prima di salutarla. È scappata un po' la frizione a Salvini su quella roba del 7-0. Forse se ne è pentito un po' anche lui, Ma io credo che il tema lì fosse ovviamente di galvanizzare le truppe. Il problema è che chiaramente quando si combatte ogni battaglia, da una parte si galvanizzano le proprie truppe, ma dall'altra si suscita anche una risposta avversaria. Quindi ad esempio in Toscana effettivamente gli ultimi giorni, soprattutto vista l'affluenza alle urne, purtroppo quello ha segnato, penso, la svolta, perché molti in Toscana si aspettavano che tanta gente del PD delusa non sarebbe andata a votare. Non è stato così, anzi, forse appunto questo ha effettivamente creato qualche apprensione. Però c'è da dire che l'avesse detto lui o non l'avesse detto, i giornali lo scrivevano già da tempo. Sì. Il problema è che noi, per dimostrare di aver vinto, dobbiamo stravincere. Se vinciamo è come se avessimo perso. Questo è un po', cioè, ci si aspetta sempre da parte di Salvini, ma in generale devo dire del centrodestra, di espugnare sempre le ultime roccaforti degli altri, così come in Emilia-Romagna, dove sinceramente, ovviamente in campagna elettorale si dice si vince, ma il presidente Bonaccini era un presidente assolutamente strutturato e che quindi ha retto benissimo il colpo. Sulla Toscana, devo dire, un po' mi sorprende perché avevo visto un candidato particolarmente debole del centro-sinistra, mentre una Susanna Ceccardi che nella campagna elettorale si era anche riposizionata rispetto ad alcune battaglie storiche che aveva fatto. Però è evidente che c'è stato anche, poi è più difficile concentrare le truppe da parte del governo in due regioni che non in sette, quindi ovviamente hanno fatto delle scelte. E quello, posso dire, probabilmente quello hanno abbandonato le Marche perché non riuscivano a recuperare. Chiaro. Grazie Edoardo Rixi per essere stato con noi, deputato della Lega. Alessandra Ghisleri, resti con noi se può. Saluto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Non è che è andata benissimo per voi, Rosato? Ma io abbiamo vinto in Toscana, abbiamo vinto in Campania. Per voi intendo come Italia Viva, Rosato, per voi intendo come Italia Viva, non intendo la coalizione di governo, il centro-sinistra, intendo voi come Italia Viva. Ma guardi, io penso che ci sono dei risultati molto importanti che abbiamo fatto, lo vedremo anche le amministrative, ma adesso a dati delle regionali, in Toscana comunque abbiamo fatto più del 4,5%, in Campania più del 7,5%, in Valle d'Aosta l'8%, il nostro candidato in Sardegna ha superato il 25%. Insomma, mi sembra alle suppletive, lo ricordiamo, in Sardegna c'erano le suppletive. Ha candidato alle suppletive. Poi è chiaro che ci sono luoghi dove era più difficile anche in una competizione così polarizzata tra centrodestra e centrosinistra collocare un candidato terzo. E in Veneto Zaia prende i voti di tutti, non prende i voti solo nostri. C'è stata una polarizzazione evidente, anche perché, lo ricordo, questa è stata la campagna elettorale più strana della storia. Io ne ho fatte parecchie, fatta per metà in agosto, senza assembramenti, con modalità veramente complicate. Quindi io sono soddisfatto del radicamento che abbiamo avuto. Abbiamo avuto centinaia di migliaia di voti che sono arrivati per la prima volta su Italia Viva. Non lo so, io non ricordo tante esperienze di... Bisogna tornare nel 94 per tornare esperienze di partiti che si presentano la prima volta e ottengono comunque un risultato così importante, pensando anche al numero degli eletti che avremo. Poi ripeto, guarderemo anche le amministrative, che sono un indicatore molto importante che avremo stamattina allo spoglio. Ghisleri, dal suo punto di vista, c'è spazio per una forza come Italia Viva? C'è spazio per un'alternativa e la gente sente che manca un'alternativa. Renzi ha messo sul piatto Italia Viva e Carlo Calenda Azione. Sono come dire, la gente li guarda ancora un po' con sospetto, nel senso che non riesce ancora a capire bene quali sono i confini e i perimetri della loro reale azione, scusate il gioco di parole, nel senso che non si sa bene se sono una costola del PD, se vogliono essere indipendenti, se si pongono come un'alternativa anche a quello che potrebbe essere il partito di Forza Italia, che poi alla fine è un partito che insomma sta perdendo parecchio consenso sul territorio anche in questa campagna molto anomala. C'è lo spazio, sì, è necessario trovare un buon programma e un'indipendenza per dimostrare che effettivamente c'è un'alternativa politica, perché oggettivamente oggi non c'è. Rosato, lei ha visto la battuta che circolava ieri su Scalfarotto, che ha ottenuto un risultato oggettivamente modesto in Puglia, è un 1,6%, diceva la battuta era ha tolto voti a Fitto, non a Emiliano, questo diceva. Questo vorrebbe, bisognerebbe ringraziarlo allora da questo punto di vista. Guardi, le ho detto, in una campagna così polarizzata, nelle due settimane effettive di campagna elettorale, vale per il Veneto, vale per la Liguria, vale per la Puglia, è evidente che trovare lo spazio non è stato semplice, e noi accettiamo quello che è un risultato evidente da questo punto di vista. Dove abbiamo potuto destreggiarsi in maniera diversa, come la Campania, abbiamo fatto il 7,5%, il PD ne ha fatto il 17%, per capirsi, non è che il PD ha fatto il 42% e noi il 3%, quindi diciamo che ci siamo, esistiamo, siamo un partito radicato. Poi oggi alla politica non è che si chiede tanto se hai preso il 7,5 o il 6,5 o il 3 o l'8, si chiede che cosa facciamo adesso per far ripartire l'economia di questo paese. Il grande tema, il grande tema è il recovery fund. Il recovery fund, il MES, e via dicendo. Senta Rosato, a questo punto il governo è più stabile comunque sulla base dei risultati elettorali di ieri Direi che il governo sarebbe stato stabile comunque, perché non c'è nessun risultato che poteva mettere in discussione la tenuta del governo. La tenuta del governo è messa in discussione, ma lo dico perché lo dice anche Conte, dalla capacità di fare le cose che deve fare. Come dicevamo un minuto fa, se saremo capaci di spendere bene e presto i soldi del recovery fund del MES, vuol dire che andremo avanti fino al 2023. Se invece ci sarà una incapacità di fare le cose, naturalmente si pagherà un prezzo, perché l'Italia paga un prezzo e non ce lo possiamo permettere. Ripasto Rosato era un, non so quanto fosse nelle fantasie giornalistiche, quanto nei boatos, nei rumors del Parlamento, però a questo punto non se ne parla più, no? Di rimpasto, guardi, noi non ne abbiamo mai parlato e quindi è chiaro che è un tema che c'è sempre sulla penna di un giornalista, perché di qualcosa bisogna scrivere di questi corridoi, e quindi è un tema. L'ha detto Orlando qua da Maria Latella, certo. Nelle nostre penne. Io non vedo questo come il tema centrale. Io vedo questo il tema centrale veramente, che ad oggi, se lei mi chiede come spendiamo il recovery fund, io mi sento in difficoltà nel descriverle la linea del governo. Però sono convinto che le prossime 2 settimane saranno decisive per dare risposte molto molto concrete. E questo mi sembra che sia il tema centrale del dibattito di oggi. Ghisleri, un'ultima domanda. Tutti scrivono che ne esce rafforzato Zingaretti. Qual è la sua sensazione? Effettivamente così, visto che parlavamo di rimpasto, di Orlando, ne sono uscite di qualsiasi tipo, Bonaccini segretario, Renzi che rientra nel PD, la qualsiasi abbiamo letto in questi giorni. Le sembra che Zingaretti ne esca rafforzato oppure no? Zingaretti esce come presidente del PD che ha tenuto. L'essere un gentiluomo, e quindi anche le sue dichiarazioni a fronte di un sì del referendum, lo hanno tenuto saldo ad una maggioranza. Il tema vero è: uno, lui quanto incide effettivamente sul governo, in questa tipologia di governo; due, con il nuovo referendum quanto sarà centrale di nuovo il Parlamento, perché anche se ho sentito tutti i commenti da questa mattina, è ovvio che la legge elettorale diventerà fondamentale, e tutto ciò che anche per il recovery fund sarà fondamentale dovrà passare forse per il Parlamento oppure attraverso i decreti. Le persone desiderano essere governati, ma con una rappresentazione comune, e questo ovviamente non sembra ancora profilarsi. Quindi Zingaretti sarà importante se saprà imporsi, e saprà imporsi dalla parte della gente per rappresentare le persone che lo hanno sostenuto nelle varie regioni, o meglio, che hanno sostenuto i diversi partiti. Rosato, in 20 secondi, ci avete mai pensato a rientrare nel PD oppure no? No, ci basta un secondo, guardi. No, okay, non è proprio all'ordine del giorno questo. È proprio una cosa che non aiuterebbe neanche il PD, che sta facendo anche un altro percorso di riavvicinamento con quella parte più a sinistra, hanno fatto la lista insieme in Liguria con Articolo 1, cioè è un ragionamento che loro hanno preso una strada, noi abbiamo preso un'altra. Questo non vuol dire non collaborare, non lavorare insieme, anzi, io penso che dobbiamo rafforzare la nostra collaborazione anche in vista delle prossime amministrative che saranno molto importanti, coinvolgeranno Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, e abbiamo bisogno di lavorare insieme, quindi io penso che questa sia la strada da percorrere. Grazie, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, presidente di Italia Viva, Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research e autrice del libro La Repubblica dei Sondaggi, edito da PM, ora di GR24. Grazie a Peter Bescapè in regia, Alessandro Marcotulli Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Grazie a tutti voi per l'ascolto della puntata di oggi, puntata speciale. Abbiamo iniziato alle 6:15, abbiamo parlato moltissimo, quasi esclusivamente di regionali e referendum. Ci risentiamo domani mattina alle 6:30, ora regolare. Buona giornata, ciao. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.